soffi davante, e chi dirò giammai? Ogni picciol momento che al suo fianco io non son, s'adora e crede che d'amarla già nasci. Quando fa chi mi ama, anch'io l'adoro, eppur direi più che sicuro io vivo. Ma tu che spesso accaio, hai di servirla il sì distinto amore, togli dal suo bel cuore quel sì freddo timor di gelosia. L'onor dei cenni tuoi adempiti saranno alla mia fede, quando Cesare sciocco